Che devo uscire. Ok, allora mi saluti a tutti, mi saluti, buona passeggiata e poi rientra a casa, già ci sentiamo. E grazie tanto per il controllo. Buon fine domenica, sentiremo domani. Figlia Mario, già hai capito chi sono, sì? Sì, non sei parchetto. Non mi scambiare con Giuseppe. No, cosa vuoi? Certe volte anche si può sbagliare. Va bene, dai, Maria. Si alzavo, dai, già ho capito che è lui, dai. Già ho capito. Ok, dai, saluto a te, guerra familiare e tutte le migliori, dai. Ciao Maria. Ciao, alle prossimine. No, ciao. Avanti canale 5. Avanti canale 5. Ciao Massimo, ben sentito. Da questa parte Mario Mao, amico di Gio Maria Figaro. Ho detto che sono Mario Mao, da Itili, amico di Gio Maria Figaro. E il CB, però sono l'amico. Abitiamo vicino. Vicino c'è la Budde. No, vicino a Graziella. Mi senti Massimo? Ho capito, e Gio Maria da ieri in Cutiaca Campagnolo, ho capito, è in campagna, altrimenti la sera siamo stati modulando. Sì, sta in frequenza. E guarda, un Santiago di 5 e una radio di 4, 3.5-4. Guarda, ho aumentato il volume, mi arrivi con la radio di 5 adesso. C'è qualche ronzio? Sì, ho qualche fischietto. È chiara la radio? Ok, va bene. Ciao Massimo, salutami Correa, alle prossimine e buona domenica. Va bene. E allora Monica è fu. C'è stava qui, Capito, via Europa. queste frasche, avvicinate il mic alla bocca, se no non ti ascolta tu. No, proprio non c'è. Va bene. Già va bene che va bene. Dov'è? Passaggio. Mamma, no, sei buono, buonos. Va, che sono piccolino, dai. Antonello, lo sai che sono piccolino io. O sei uscito, Antonello. Dammi 2 minuti, Antonello, mi piglio la cicca. Alla roccia. E che si dice? Ma non penso. Passate di brutto sono. 33, eh? No, l'ho capito, la fa culo. cioè se parli un po' italiano, capisci a me, comprendi un po' l'italiano. Muchas gracias. Ti mettiamo a parlare spagnolito qua in quelle coordinate qua del nord di Sardegna. Dieta mucha, si scusi cambio. Ma su tu vado alleato. Ma se lo fa questo? Tu che è da quella parte? Ehi, Vittorio, dai, se mi ascolti, buonasera, che ben sentito, gaffa. Ciao Vittorio, un attimino, parola di bianco che mi sta squillando il telefono, un attimino ti riprendo subito, Vittorio. Gaffa fa che? No problem. Vaga, va dai, riprendo subito, mi sta squillando il telefono, Gaffa. Oh Vittorio, ripenso, Vittorio. Mi ha fatto molto piacere, mi tu. Ciao, ragazzi. braccio di ferro, ti saluta e ti augura una buona serata. Ciao ciao di nuovo. Ehi, hey, braccio di ferro, dai, alle migliori, ciao, domani, ciao. A Torello, Ossi Olandia. Torello, Ossi. Dopo, Ossi si è perso, a Torello. Ascoltando a Torino qua dal nord Sardegna, città di Sassari, ti sta salutando, dai, tutte le prossime anch'io faccio un po' di bianco se mi vai copiando, vai.